Il 20 ottobre del 1946 il Sant'Uffizio trasmette ad Angelo Roncalli, all'epoca nunzio apostolico a Parigi, un documento in cui lo si informa di alcune decisioni approvate dal Papa Pio XII. Decisioni alle quali il nunzio ovviamente dovrà attenersi. Sono cinque vere e proprie istruzioni su come comportarsi nei confronti di quei bambini ebrei, anzi il documento dice giudei, che durante l'occupazione tedesca sono stati salvati presso famiglie e istituzioni cattoliche. La prima istruzione raccomanda di non rispondere per iscritto alle autorità giudaiche che ne reclamano la restituzione. La seconda raccomanda di prendere tempo in ogni caso, adducendo la necessità di svolgere indagini prima di decidere. La terza vanta una sorta di diritto di proprietà acquisita, escludendo che comunque possano essere restituiti quei bambini che avessero già ricevuto il battesimo. La quarta accetta l'idea che i bambini eventualmente non ancora battezzati possano, a determinate condizioni, essere anche restituiti. La quinta specifica che se i bambini fossero stati affidati alla Chiesa Cattolica dai propri genitori e se questi ora li reclamano, i bambini, d'accordo sempre a condizione che non siano stati ancora battezzati, possono essere restituiti. Ora, che da questa lettera tutte le nostre convinzioni in materia possono venirne rivoluzionate, tenderei ad escluderlo. Che la Chiesa Cattolica sia sempre stata antisemita è un'ovvietà, perché innanzitutto ogni Chiesa è Chiesa perché è contro un'altra Chiesa, e poi perché importanti suoi personaggi, ne dico uno, si pensi a padre Agostino Gemelli, fondatore dell'Università Cattolica, hanno ripetutamente scritto e detto contro ebrei e contro gli ebrei in quanto tali cose gravissime e vergognosissime. Che oggi la medesima Chiesa non ci tenga un granché a questo suo irredimibile, irrimediabile passato è altrettanto ovvio. La corsa al lavaggio della fedina penale è uno sport molto diffuso fra i potenti. Allorché il Corriere della Sera il 28 dicembre scorso pubblica questa lettera, infatti la notizia diciamo che sia un'altra. Pio XII ordinava sì, ma a quanto pare Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, il Papa buono, oggi già beatificato, a quanto pare non ubbidiva. Se non che, c'è anche un partito di gente che non ha di meglio da fare che non promuovere la beatificazione di Pio XII. E dunque dal giorno dopo la pubblicazione di questa lettera divampa la polemica. Allora, c'è chi scopre ora l'insensibilità del Papa per l'Olocausto e c'è chi invece ne loda la coerenza, perché ogni battezzato dice è figlio della Chiesa, il che, visto e ben considerato, con le proprie regole se le stabilisce la Chiesa stessa, è rigorosamente incontrovertibile. C'è chi scopre che casi di non restituiti hanno continuato ad accadere anche successivamente, chi sostiene che la lettera non è proprio un falso, ma almeno un falsoide sì, perché si tratterebbe di una copia, sì, forse di una sintesi di istruzioni ricevute, o forse addirittura di una lettera che il nunzio apostolico, in un delirio letterario da personalità multipla, avrebbe scritto a se stesso. E c'è chi propone di bloccare il processo di canonizzazione di Pio XII e c'è chi dice che Pio XII non era affatto antisemita. Ecco, e qui, ahimè, ai noi e ai tutti, bisogna fermarsi un attimo. Lucetta Scaraffia, ecco, che purtroppo insegna storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Lucetta Scaraffia, fra l'altro, sostiene quanto segue. Allora, sostiene che la Chiesa Cattolica non è mai stata antisemita e che, semmai, bontà sua, è stata antigiudaica. B, che non esistono prove che questo antigiudaismo sia sfociato in un consenso e in un appoggio all'antisemitismo dei nazisti. e C, che la Chiesa di allora non poteva certo avere la nostra attuale sensibilità verso gli ebrei. Perché? Perché? Perché ci siamo infatti resi conto solo lentamente, a partire dalla fine degli anni 50, della mostruosità e dell'entità del crimine perpetrato dai nazisti contro gli ebrei. Prima, par di capire, ritenevamo, noi tutti con Pio XII uniti, che questi ultimi se la fossero cavata con una bella ramanzina, con qualche scappellotto. Ora, ad approfondire questo taglio epistemologico alla moda, ecco, pochi giorni dopo provvede Ernesto Galli della Loggia, non chiedetemi quale, che prontamente prende l'ultima palla al balzo e ha l'impudicizia di affermare che l'Olocausto ha cominciato a desistere, verbo suo, a desistere solo dagli anni 60 in avanti, e che dunque scandalizzarsi per la mancata ripulsa 70-80 anni fa da parte di uomini e organizzazioni di ciò che oggi definiamo antisemitismo costituirebbe una grave indebita forzatura. All'origine, secondo lui, ci sarebbe un errore metodologico, quello di giudicare moralmente e storicamente il passato, anche il più prossimo, con il metro che adottiamo per giudicare il presente. Il passato stesso e la sua immagine, filosofeggia, diciamo così, idealisticamente, il passato stesso e la sua immagine sono a loro volta una costruzione storica, qualcosa che non si costituisce immediatamente una volta per tutte, ma si forma e si trasforma con il tempo. E dunque, amplio io il discorso, chissà cosa diventeranno i campi di sterminio tedeschi fra qualche anno. Basta saper attendere e se sono svastiche fioriranno. Non la farò lunga, anche perché sulle miserie del relativismo storico e sulle miserie nefande del relativismo storico applicato al nazionalsocialismo e al comportamento della Chiesa Cattolica ho già più volte detto la mia, ma qualcosa debbo pur dire. Che la scarafia faccia il pesce in barile o no, l'antigiudaismo, si sarà notato tra l'altro che il documento del Sant'Uffizio parla di giudei e non di ebrei, l'antigiudaismo è semplicemente un nome precedente dell'antisemitismo, esattamente come presidente del Consiglio era il nome che prima del fascismo si usava invece di premier. Ecco, che questo antisemitismo tradizionale non abbia costituito né consenso né appoggio all'antisemitismo nazista è letteralmente impensabile. Sarebbe come dire che la Chiesa Cattolica non abbia mai costituito né consenso né appoggio alla Democrazia Cristiana, o forse qualcosa di più improponibile ancora. Che l'Olocausto sia una costruzione storica degli anni 60 è una falsificazione oscena. Ho già avuto modo di ricordare, per esempio, non so, che la Cressman Taylor nella lontana America, ha scritto Destinatario sconosciuto nel 38. Oppure che Rauschning ha pubblicato Hitler mi ha detto, il cui sottotitolo era un inequivocabile Confidenze del Führer sul suo piano di conquista del mondo, l'ha pubblicato a Parigi nel 1939. Un testo che appare nella versione italiana già nel 45, da cui si evince che la pianificazione dei campi di sterminio nell'ambito di quella che allora veniva definita politica biologica è già pronta e nota a tante persone fin dal 1933. E gli esempi, includendo magari i testi di Hitler medesimo stampati in Italia a suo tempo dal democraticissimo e progressistissimo Conte Valentino Bompiani, potrebbero moltiplicarsi. Chi voleva capire, chi voleva vedere, non dico fare qualcosa, senza il metro di oggi e con il metro di ieri, senza aspettare i magici anni 60, quando i morti erano morti nonostante la costruzione storica in fieri, quella della scarafia e del Galli della Loggia, non chiedetemi quale, li desse ancora sul chi vive, chi voleva capire e chi voleva vedere poteva, sì, poteva, sia capire che vedere, non dico fare qualcosa. O lo dico? Comprendendo, vedendo, volendo, poteva anche fare qualcosa. Allo storico spetta la consapevolezza delle categorie che usa. Nessuno può pretendere da lui la verità se non infilandosi nel vicolo cieco di un realismo filosofico autocontraddittorio. Da questo esercizio consapevole delle categorie, poi, lo storico deve ottenere descrizioni coerenti dell'oggetto in studio. Tutto qui è almeno questo. Faccio un esempio brevissimo. Se beato ha da essere chi ha dato l'ordine, è difficile che possa esserlo anche chi quest'ordine non l'ha eseguito. Eppure la Chiesa Cattolica ci riesce benissimo. Sono nato nel 1945. Per forza di cose e non per ideologia storiografica, per me il nazismo e i campi di sterminio sono diventati un fatto storico con un certo ritardo. Ma sempre prima di quel che i professori del relativismo odierno vorrebbero. Con notte e nebbia di Alain Resnais, un documento visivo che rimane come un chiodo conficcatomi nel cervello dal 1960, allorché lo vidi al cinema Ritz di via Torino a Milano. Un documento visivo che, peraltro, era stato girato già nel 1955 e completava i documenti visivi precedenti, gli originali filmati di chi aveva varcato fra i primi quelle soglie indimenticabili.